Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. A volte dietro un bel titolo e una bella copertina c'è anche un bel romanzo. Non è detto, ma a volte veramente succede. Il romanzo di cui vi parlo si intitola Ultima la luce, l'ha scritto Gaia Manzini, pubblicato da Mondadori. La copertina alla radio non si può vedere, quindi naturalmente andate sul web a cercarla, ma vi posso dire che si vede una piscina e una ragazza sul bordo piscina, così accovacciata, con una cuffia rossa in testa. E questa copertina ha un significato speciale per questo romanzo. Gaia Manzini, il protagonista di questo romanzo, diciamo il personaggio principale, perché poi ce ne sono diversi, è Ivano, un uomo, tu ce lo fai conoscere, che ha già 68 anni, quindi insomma ha già una certa età, e decide sostanzialmente di andare a fare un viaggio, di andare a trovare suo fratello che non vede da tantissimi anni, perché è andato a vivere appunto da tanto tempo ai Caraibi, a Santo Domingo. Decide di fare questo viaggio attraverso diciamo il rapporto con il fratello Lorenzo e poi attraverso il rapporto con la figlia Anna. Si scopriranno tante cose di Ivano, soprattutto la sua strana e tormentata, forse anche, storia d'amore con la moglie Sofia, che si capisce fin dalle prime pagine del romanzo muore. Allora, ci vuoi dire come hai voluto così dipingere, tratteggiare questo personaggio principale, Ivano? Allora, Ultima la luce racconta, come dicevi, di questo personaggio, di Ivano, che è un uomo che non ha nulla, diciamo, di eroico, è un personaggio che possiamo definire composto e che ha avuto tutta la vita una visione prospettica dell'esistenza, una idea luminosa di futuro, uno che ha sempre pensato, è un ingegnere, di poter avere un progetto di vita insieme alla moglie, di costruire la propria felicità. E io lo colgo, dopo la morte appunto di questa compagna, nel momento in cui si rende conto che tutta la vita, per come l'aveva costruita, per come l'aveva pensata, si rivela una totale illusione. Solo che ci arriva piano piano, costruisce piano piano questo quadro del passato. E infatti si capisce appunto che Ivano si è illuso, comunque ha vissuto dei rapporti che non erano esattamente quelli che lui pensava. Nel momento in cui naturalmente si fanno dei flashback, si va al ritroso, si ricostruisce anche il passato di Ivano, c'è un momento in cui si parla della malattia di Sofia e poi chiaramente della morte di Sofia. A un certo punto, a proposito della malattia, Sofia in ospedale, tu scrivi: adesso c'era il fatto che lei non fosse lì ad opprimerlo, esattamente ciò che aveva desiderato negli ultimi tempi della loro convivenza. E poi, a proposito della morte, scrivi: da quando era morta era successa una cosa. La sua visione del mondo, che per decenni si era mescolata alla visione del mondo della moglie, era tornata a essere a tutto campo. Non c'è una parte di te che se ne va con la persona deceduta, ma una che ritorna. Ecco, questa è una delle frasi che ho sottolineato in questo romanzo, perché mi è sembrata molto, molto bella, molto acuta, profonda, e dà l'idea che Ivano sia stato quasi un po' schiacciato dalla figura della moglie Sofia durante la sua vita. Ma questa è una presa di coscienza ovviamente ex post, perché diciamo in questo romanzo il passato irrompe di continuo nel presente e Ivano fa quello che in realtà facciamo tutti poi con la memoria, ci riscriviamo, no? Riscriviamo la nostra vita. E lui appunto, come si diceva prima, si rende conto di aver vissuto in una grande illusione, ma non c'è soltanto questo, non c'è un deflagrare di una rabbia, c'è in realtà uno stupore, il sentimento che lui prova, un attonito stupore, perché si rende conto che questa moglie, che è l'inconoscibile, e si rende conto appunto di non averla mai afferrata, gli manca adesso che è morta, e gli mancava allora perché non era mai stata sua. E poi c'è un altro piano dell'illusione, che non è soltanto l'illusione, no, della relazione, ma l'illusione che uno ha anche di se stesso. Io pensavo di essere in un determinato modo e poi mi accorgo che invece ci sono delle parti di me, e qui vengo all'ultimo pezzo che hai letto, che invece affiorano. C'è uno spazio reale, proprio uno spazio mentale, ma anche reale, che è lasciato vuoto dalla persona che se n'è andata, e questo fa venire a galla quello che io avevo dimenticato anche di me stesso. E infatti c'è quasi una rinascita, possiamo dire, di Ivano, comunque un ricominciare, una vita diversa dal momento in cui Sofia muore, dal momento in cui lui si rende conto che molte cose che ha vissuto con lei in realtà le ha interpretate in un modo diverso da come lei le aveva interpretate. Non possiamo dare troppi dettagli su questa trama, non perché sia un giallo, ma perché ci sono delle cose che fa piacere al lettore naturalmente scoprire pagina dopo pagina. Ma diciamo che nel momento in cui Ivano va a trovare il fratello Lorenzo, appunto dopo tanti anni che non lo vede, ai Caraibi, scopre delle cose della moglie che non sapeva. Ecco, tu costruisci tutta la prima parte di questo romanzo su un crescendo, si capisce che deve sapere qualcosa Ivano, nel momento in cui sa questa cosa che non vi possiamo dire, è come se lui l'accettasse, cioè tu cambi direzione, vai a raccontare altre cose, perché non l'hai fatto esplodere questo personaggio? Perché Ivano è un personaggio che si sente che è totalmente disperato, ma è un personaggio che implode. Questa è la storia, in realtà la prima parte è la storia di un fallimento, ma lui non è un titano, cioè non fa rumore quando casca, ma fallisce come falliscono le persone normali. E quindi a me interessava raccontare questa dimensione perché sento di queste persone vibrare molto di più la loro umanità, le sento più vicine. Allora, se non sei un titano, se non sei un eroe che cade, si sfracella e porta con sé tutto il suo mondo, allora ti tocca ricominciare. Quindi lui è disperato, farà una nuotata disperata, ma è sempre una cosa silenziosa, è una cosa che si costruisce all'interno della sua mente con piccoli gesti che andanno a ricomporre l'attesa di un nuovo inizio, di una nuova vita possibile con la figlia Anna e con una nuova donna che incontrerà nel frattempo. A proposito di nuotata, non è un caso appunto che in copertina ci sia l'immagine di una piscina, perché il nuoto viene rievocato spesso, perché il papà di Ivano e di Lorenzo, quando loro erano bambini, insomma, li costringeva quasi a nuotare, quindi ha un significato particolare per Ivano. E il titolo, bellissimo appunto, Ultima la luce, che io ho capito solo quando sono arrivata a pagina 157, perché ho capito che cosa voleva dire. Ivano, diciamo, ricorda quando il padre, suo padre, li costringeva, insomma, gli insegnava anche a nuotare e diceva acqua luce, cioè che nuotare significava guardare l'acqua e poi rivedere la luce, insomma, prendere aria. Dice, era la vecchia litania che gli aveva insegnato suo padre per tenere il ritmo della respirazione. L'importante però è non finire con l'acqua, ultima la luce. Da qua si capisce anche, e poi lo si capisce chiaramente leggendolo, che è un romanzo comunque pieno di speranza e della sensazione che nella vita si può sempre ricominciare anche se la propria vita è stata costruita su delle cose false, diciamo così. Sì, la luce è la seconda possibilità. E mi piaceva portare il romanzo su questa strada. E l'ho fatto proprio cercando di costruire questo personaggio sul perdono e poi anche sull'incontro. Incontra questa donna che si chiama Liliana, in parte lei è portatrice di luce. Di questo titolo, è una portatrice sana di vita. Sono quelle persone che ogni tanto si incontrano e magari non le conosciamo neanche bene e che ti inondano, no? Improvvisamente di questa luce. Liliana ha una storia drammatica alle spalle, però riesce a dare la luce alle persone che incontra. Perché è l'unico personaggio che non è ipocrita, è l'unica a non mentire. Ha avuto una vita brutta, ha avuto delle sconfitte pesantissime, però nello stesso tempo è una persona anche profondamente sola, con un fondo di disperazione, questa solitudine, però nonostante questo, dicevano, è una che non si arrende, che continua a vivere, o meglio a quell'istinto lì, non potrebbe fare altro. E quando la incontra anche Anna, che è la figlia di Ivano, dice questa donna, pensa che quella donna è una donna che vive in primavera, sempre in primavera, anche se non è una donna che giovane, non conosce l'inverno, che non conosce l'inverno, e poi soprattutto ha questa dolcezza nei confronti degli altri, smussa con la sua voce le asperità dell'interlocutore, perché che sono quelle persone, quelle donne che sono sempre accoglienti, delle case con la porta sempre aperta sostanzialmente. Ecco, si capisce però che questo discorso acqua luce che tu fai dire, diciamo, al papà di Ivano e metti nel titolo Ultima la luce, è un po' una metafora della vita di Ivano e probabilmente anche degli altri personaggi. È una metafora della vita o della speranza, anche se una lettrice mi ha fatto notare un secondo livello di lettura. Ultima la luce è che la verità anche viene sempre per ultima e si scopre sempre alla fine. A proposito di verità, abbiamo detto che Ivano si rende conto dopo la morte della moglie che ci sono stati molti non detti, ci sono stati dei fraintendimenti, ci sono stati dei silenzi, delle incomprensioni nel suo rapporto con Sofia. Ma si accorge anche, lo scopriamo nella seconda parte, che ci sono state molte incomprensioni anche con la figlia Anna. Lui adesso ha 68 anni, lei ne ha 36, insomma succedono una serie di vicende e anche qui ci sono stati dei silenzi che hanno rovinato il loro rapporto. Anche in questo caso, ultima la luce. Anche in questo caso ultima alla luce, mi sono interrogata ultimamente moltissimo sui rapporti padre figlia, anche dovendoci fare uno sforzo, perché io sono mamma di una bambina. Allora, i rapporti tra madre e figlia sono tutta un'altra cosa, no? Partono dal cuore, partono dalla pancia. Con un padre c'è una distanza maggiore, sì, non che ci sia una distanza, però c'è forse più un approccio razionale. E allora ho pensato dentro di me, come fare a recuperare questo rapporto tra questi due personaggi? Dicevano che tra di loro c'erano soltanto ormai lunghi silenzi, era da molto tempo che non avevano una lingua comune, e non avere una lingua comune, cioè una confidenza, una complicità, voleva dire che sua figlia non gli apparteneva più. Allora quando iniziano a riavvicinarsi fanno un lunghissimo dialogo durante una passeggiata sotto la neve, bellissima, dove si tengono stretti, dove insomma sotto braccio, esatto, e quindi recuperano anche questa complicità anche fisica, dove le parole sono come passi di un tragitto, di un percorso nuovo che devono compiere insieme. Insomma, si capisce che in questo romanzo Ultima la luce è quella che diciamo illumina il passato di Ivano, che illumina la sua vita e magari anche il suo futuro. A proposito del personaggio di Liliana, che prima dicevamo appunto è lei portatrice di luce, seppur insomma un passato sofferente, mi è piaciuta molto la descrizione della solitudine. Liliana e la solitudine. A un certo punto, in un dialogo fra Ivano e Liliana, lei dice la solitudine, e lui risponde: ma tu non sei sola, è una cosa con cui si nasce, ma io non credo, vuoi sapere come sento l'età io? E poi continua sempre Liliana: la cosa più difficile da accettare è non essere amati da qualcuno, non essere mai stati considerati da un'altra persona degni del suo amore, questa è la cosa più difficile. Dietro la luce di Liliana dunque c'è, come dire, questo profondo vuoto interiore. Non so se è un vuoto interiore, è quella cosa che spesso si prova, non so come dire, sentire, consustanziarsi nello sguardo dell'altro. A volte abbiamo l'esigenza di essere guardati per confermare, no, a noi stessi. Di essere definiti in qualche modo. Esatto, esatto. Di avere un'identità. Che esistiamo. E allora questa cosa è una cosa che io stessa ho provato, che le mie amiche hanno provato, e che è bella, ma è anche sempre un pochino una sconfitta. Com'è possibile che non ci bastiamo? Non so definirlo in modo così puntuale come sentimento, però è un fluttuare, no? Tra un'identità che uno pensa di avere e anche il riflesso negli occhi degli altri, negli sguardi degli altri. Il romanzo che vi consiglio vivamente oggi, perché a me è piaciuto molto, sapete, dico le cose come le penso, si intitola Ultima la luce, l'ha scritto Gaia Manzini, che ringrazio. Grazie a voi. Ed è stato pubblicato da Mondadori. Un romanzo, abbiamo detto, dove si racconta la storia di un uomo che a un certo punto della sua vita, dopo la morte della moglie, riesce a scoprire molte cose del suo passato e a illuminarle. Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri. Il cacciatore di libri. Se dico Pepe Carvalho, il pensiero va subito naturalmente al personaggio creato dalla penna dello scrittore spagnolo Manuel Vázquez Montalbán, scrittore morto nel 2003. Diciamo che Carvalho era una sorta di alter ego, un detective privato che invecchiava, diciamo, contemporaneamente al suo autore. Da giovane era stato militante comunista contro il regime di Franco, come lo stesso autore, ed era stato anche agente della CIA, poi diventato appunto investigatore privato a Barcellona. Pepe Carvalho è un personaggio creato appunto da Vázquez Montalbán nel 1972, era arrivato in Italia all'inizio degli anni 80. Gli ultimi due romanzi pubblicati in Italia in realtà sono un romanzo solo diviso in due, cioè Millennio 1 e Millennio 2, e risale al 2004-2005. Su Pepe Carvalho sono stati fatti film, serie televisive, di cui adesso per esempio si sente la sigla di una serie andata in onda in Spagna. Perché parliamo oggi di Pepe Carvalho? Beh, perché Pepe Carvalho come personaggio tornerà, anche se appunto il suo creatore, dicevamo prima, è morto nel 2003. Sarà un altro scrittore a mettere nero su bianco le sue avventure, la stessa cosa che per esempio era accaduto con 007, nel senso che i libri con lui protagonisti non sono stati scritti solo da Ian Fleming, ma un esempio più recente è dato dalla saga Millennium dello svedese Stieg Larsson, visto che appunto dopo la sua morte il quarto volume è stato scritto da David Lagercrantz. Insomma, prendere il testimone di Vázquez Montalbán è lo scrittore di noir e anche poeta Carlos Zanon. Il primo libro con Pepe Carvalho protagonista arriverà in Italia nel 2018. Sergio Nava ha incontrato Carlos Zanon, colui il quale dunque continuerà a scrivere le avventure di Pepe Carvalho, in un bar, in un caffè di Barcellona. Sentiamo che cosa si sono detti. Bueno, ha passato muchos años para Carvalho y tampoco... Sono passati tanti anni per Carvalho dall'ultima uscita in libreria. Ci saranno sorprese che indicheranno una rottura col mondo che aveva lasciato all'inizio del millennio. Ciò che cercherò di fare sarà soprattutto mantenere il punto di vista lucido e cinico che aveva Pepe Carvalho. Che pensaste quando te... Che cosa hai pensato quando ti hanno proposto questo incarico? Bueno, al principio mi sorprendió mucho porque... Mi ha sorpreso molto all'inizio. Non avevo neppure mai pensato a una tale eventualità. La verità è che non sono un tipo molto intuitivo. La notizia mi ha reso felice, l'ho ritenuto un onore, il fatto che assegnassero a me questo incarico e non ad altri scrittori. E ho creduto fin dall'inizio che potevo farcela. Non pensai molto alle ripercussioni e all'eco mediatica che la notizia avrebbe avuto. Se ci avessi pensato, forse l'avrei presa diversamente. In ogni caso, la notizia mi ha reso molto felice. Igual se lo hubiera pensado, me lo hubiera tomado de otra manera, pero no. Al principio me hacía ilusión. Sabes perfectamente que hay un... In Italia ci sono milioni di lettori di Pepe Carvalho che aspettano con impazienza il nuovo romanzo. Cosa puoi anticipare del nuovo Carvalho senza ovviamente rovinare troppo la sorpresa? Bueno, es un Carvalho que va a estar en la actualidad. È un Carvalho che vivrà nell'attualità, nell'anno 2017 o 2018. Sarà un Carvalho che dovrà risolvere un caso contemporaneo. Avrà intorno a sé molti personaggi della vecchia serie. Altri invece non ci saranno. Mi interessa molto sviluppare il punto di vista di Carvalho sulla realtà sociale e politica dell'Europa, della Spagna e della Catalogna. È un mondo molto diverso da quello che ha lasciato Carvalho nel 2004, anno dell'uscita di Millennio, l'ultimo suo romanzo. Il mondo è cambiato drasticamente. L'anno scorso hai scritto un articolo nel giornale L'Avanguardia, nel quale ti immaginavi un Carvalho un po' perso in questo nuovo mondo. Allora, che Carvalho ritroveremo nel nuovo romanzo? Un Carvalho che non si incastra più tanto bene in questo nuovo mondo? Bueno, Carvalho nunca encajó bien nel mondo che le toccò vivere, no? Beh, Carvalho non si è mai incastrato bene nel mondo in cui gli è toccato vivere. Viveva intrappolato in una serie di nostalgie e malinconie. Credo che si troverà un po' fuori posto, ma non così perso come lo avevo immaginato in quell'articolo che scrissi per L'Avanguardia. Ci saranno delle cose accadute a Barcellona negli ultimi anni che finiranno col piacergli maggiormente rispetto a quelle successe a inizio secolo. Penso, per esempio, che gli piacerà scoprire che una persona che ha militato nei gruppi antisfratto possa essere arrivata, grazie al voto popolare, ad essere sindaca della sua città. Come penso al movimento degli Indignados. Me lo immagino, sì, fuori posto, come del resto siamo un po' tutti oggi. Ma non me lo immagino perso in questa Barcellona. Non più di prima, almeno. Perdido en la ciudad, o sea, no más que antes, vamos. Siempre desencantado, ¿vero? Siempre. Eso es una forma de inteligencia, ¿no? Siempre. L'essere disincantato è una forma di intelligenza. La lucidità implica guardare, vedere e accettare. La vita è così. Claro, non possiamo anticipare troppo sui personaggi di contorno, ma uno è più particolare degli altri. Parlo del suo aiutante, Biscuter. Lo recupererai dopo il viaggio che i due hanno fatto per il globo nell'ultimo romanzo, Millennio? Bueno, estos son misterios della novela. Questo è un mistero del romanzo. Il mio romanzo però non prende come punto di partenza l'ultimo libro di Carvalho, Millennio. Non li aggancio direttamente. Biscuter è un personaggio molto importante per la trama e molto amato dai lettori. Vedremo. No lo enlazo. Entonces, bueno, Biscuter è un personaggio molto importante nella trama e molto querido por los seguidores. y bueno, pues ya se verá. Bueno, a parte del tema Carvalho, questa è la prima volta in Spagna che si tenta un esperimento di questo genere. Mai prima di oggi un personaggio letterario è sopravvissuto al suo autore. Questo può aprire anche una nuova tendenza. Ti ci vedi a continuare a scrivere libri di Carvalho nei prossimi anni? Non lo so. Quiero ver cómo me siento, si me siento cómodo. Non lo so. Voglio vedere come mi sento e se mi sento a mio agio nello scriverli. Se mi sento a mio agio nel gestire un libro all'interno di un progetto così grande. Non ci sono abituato. Io mi muovo in altri ambiti. Se mi sentirò a mio agio e il libro sarà accolto bene, non escludo di poter continuare a scrivere romanzi di Carvalho. Ma a prescindere, io voglio scrivere un buon libro. Al di là del fatto che sia un libro di Carvalho, deve essere un buon libro poliziesco. E un libro nel quale io mi riconosca. Se mi hanno scelto, è per il mio modo di scrivere. Non ha alcun senso che io scriva esattamente come scriveva Manuel Vázquez Montalbano, col suo stesso stile. Ningún sentido que yo tratase de escribir como Vázquez Montalbán. Eso es importante, o sea que... Questo è importante. Ai lettori del nuovo Carvalho, insomma, mandi a dire aspettatevi uno stile diverso. Claro. Sí, sí, además es que... O sea, yo tengo un estilo... Chiaro, io ho uno stile molto concreto, non è uno stile trasparente. Questo libro sarà così. Ovviamente aggiungiamoci l'atmosfera e il personaggio di Carvalho nella città di Barcellona di oggi. Con l'atmosfera e con il personaggio di Carvalho nella città di Barcellona di ora. Sopra il tuo articolo in L'Avanguardia... Una curiosità, perché nell'articolo che hai scritto per L'Avanguardia immaginavi un Carvalho contemporaneo che si divertiva a lanciare i libri di Stieg Larsson nel suo onnipresente camino? Perché bruciava proprio quei libri? Bueno, fu un po' come una provocazione perché además fu una provocazione anche perché scrissi che l'unico libro che il mio immaginario Carvalho avrebbe salvato era proprio l'ultimo, quello che non aveva scritto Larsson. Voleva essere una battuta. Quello era un momento, tra l'altro, in cui le trattative si erano rotte, per cui non era più previsto che scrivessi io il romanzo di Carvalho. Insomma, fu una piccola provocazione. Io personalmente ho letto sia la trilogia di Larsson, sia il quarto libro della saga, e a mio parere il quarto, scritto da Lagercrantz, è meglio del secondo e del terzo della trilogia. A volte si giudicano in modo molto duro libri che non sono scritti dall'autore originale, per poi scoprire che a livello qualitativo sono uguali, se non addirittura superiori. Ha sido un ex agente la... Carvalho è un ex agente della CIA. Lavorerebbe ora per Donald Trump? Non so, è una buona domanda. Io credo che se Donald Trump quasi non ha conseguito... Non lo so, è una buona domanda. Credo che se Trump non è riuscito quasi a trovare chi cantasse in occasione del suo giuramento... Beh, non so, ma non credo che Carvalho lavorerebbe per Donald Trump. E un'ultima cosa, claro? E per chiudere, quando possiamo aspettarci nelle librerie italiane il nuovo romanzo di Pepe Carvalho? Bueno, sarà, io credo che sarà a mediados. Penso che il libro uscirà a metà fine del 2018. Non so però anticipare se uscirà prima in Spagna e poi sarà tradotto in altre lingue o se uscirà in contemporanea. Non lo so. Questa era l'intervista di Sergio Nava a Carlos Zanon, che scriverà appunto a partire dal 2018 le nuove avventure di Pepe Carvalho, il personaggio creato da Manuel Vázquez Montalbán, scomparso nel 2003. Molti autori di noir hanno preso spunto proprio da Vázquez Montalbán, tant'è vero che per esempio il nostro commissario Montalbano di Andrea Camilleri si chiama così proprio perché Camilleri ha voluto, come dire, rendere omaggio a quest'autore, Vázquez Montalbán, chiamato molto. Anche per oggi è tutto, grazie in regia Paolo Corleoni. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su radio24.it, sempre disponibili in podcast. Potete scaricare anche la nostra app e naturalmente mettere l'alert nel momento in cui viene prodotto il podcast del Cacciatore di Libri. Una buona lettura a tutti da Alessandra Tedesco.